in primo piano. E verrebbe da dire sì, tutti a Pontida. Oggi i giornali praticamente non parlano d'altro per quel che riguarda la politica, le aperture. Inizia allora con la Padania, il titolo. Ultimatum al governo, questo è il titolo dell'organo della Lega. Per il Corriere della Sera, Bossi attacca ma non rompe. Per Repubblica, Bossi preavviso a Berlusconi. La Stampa, Bossi a Berlusconi, la tua leadership adesso è a rischio. Il Messaggero, Bossi, ora Berlusconi rischia. Per il Giornale, Bossi non tradisce. Per Libero, che esce in edizione straordinaria per Pontida, la Lega tiene duro. L'Unità, penultimatum, c'è la foto di Bossi. Per il Secolo XIX, Bossi sfida Berlusconi. Il Sole 24 Ore invece, l'edizione del lunedì, si concentra su uno dei temi che ha toccato anche il leader della Lega: riscossione, una riforma a metà, perché domani ci sono delle importanti novità alla Camera che vedremo poi analizzate dal Sole 24 Ore. Allora, da cosa vogliamo partire come inizio di segnalazioni? Beh, intanto voglio andare in Gran Bretagna, perché si è conquistato tante pagine di giornali, non solo in Gran Bretagna ma anche oggi in Italia, e anche tante critiche. Il premier britannico Gordon Brown, che per David Cameron è il premier britannico, Gordon Brown è il predecessore, che per festeggiare la festa dei papà e delle dei papà in America e in Gran Bretagna, il giorno che viene dedicato ai papà, ha fatto un intervento sul Telegraph. È solo che ha fatto un attacco incredibile. L'anatema di papà Cameron, gogna per i padri assenti. I padri assenti vanno stigmatizzati, ha detto il premier britannico. E fin qui va bene, come i guidatori ubriachi. Questo è il paragone incredibile fatto dal premier inglese, sono come i guidatori ubriachi. E questo è il titolo del Corriere della Sera, ma guardate anche sulla Stampa, la crociata del premier contro i padri cattivi. Chi abbandona i figli è come chi guida ubriaco. Molti però lo criticano, le associazioni per esempio dei padri separati. Critica gli uomini e le donne, perché il premier non mostra un po' più di rispetto per il dolore delle persone. Quindi intanto si sono arrabbiati le associazioni di padri separati. Guardate anche sul Libro, la crociata di Cameron contro i cattivi papà. Sono come chi guida ubriaco. 1.700.000 sono le madri single. Il premier inglese condanna gli uomini che le abbandonano. E certo, la condanna ci può stare tutta, ma il paragone è di quelli che ha scatenato un putiferio di polemiche, quello del premier britannico David Cameron, su tutti i giornali. Chi invece si è conquistata un po' di elogi, molte foto di rappresentanza, tanti articoli di giornali e anche qualche critica, è Angelina Jolie, che ieri è sbarcata con un aereo privato a Lampedusa, era a Malta al seguito di suo marito Brad Pitt, che sta girando un film, pare, a Malta. Ha preso un jet, lei certo è ambasciatrice dell'ONU, ambasciatrice di buona volontà, è atterrata con un aereo privato, ha fatto un giro con un block notes, prendeva notazioni, prendeva appunti, parlava con i profughi a Lampedusa, si è fatta prendere le impronte digitali, ha detto sono profuga anch'io, Jolie Angelina. Ha detto il mio paese ha avuto tanto dai milioni di persone che ha accolto. Beh, certo, ma vabbè, ci sono tantissime foto col sindaco di Lampedusa, con sulla Stampa, la trovate a pagina 14, faccia a faccia con una serie di profughi, mentre ascolta molto attentamente. La Jolie a Lampedusa lascia le impronte, sono una profuga anch'io. Il Giornale è impietoso, la sceneggiata di Angelina, immigrata di lusso, la star arriva sull'isola, si sottopone al rito dell'identificazione con l'impronta digitale, ma lei è arrivata col jet privato e non con il gommone. Vabbè, questa Angelina Jolie, ieri, che vedete un po' in tutte le salse, in tailleur nero, arrivata sulla canicola, nell'ora della canicola a Lampedusa. C'è tempo forse per una terza segnalazione molto interessante dal Sole 24 Ore, in prima pagina la trovate, perché riguarda tutti noi, cari ascoltatori, tutti gli italiani che hanno la patente. Per 2 patenti su 3, in arrivo a luglio, il bonus dei punti. Sono Rossella Cadeo e Maurizio Caprino che ne parlano poi a pagina 9 di cosa si tratta. La ricarica da 52 milioni di punti. Sta per riversarsi sulle patenti di 25,9, dunque quasi 26 milioni di guidatori italiani, coloro che sono riusciti a mantenere intatta la loro dote di credito in quanto mai multati per qualche seria violazione del codice della strada. Non è un regalo del ministero, è tutto ciò che prevede il codice della strada. Praticamente chi non ha ricevuto mai multe avrà questa ricarica di punti stabilito dal codice della strada, che recita questo: ogni titolare di licenza di guida da fine giugno 2003, cioè dall'entrata in vigore del sistema punti, ha una dote di 20 crediti e ogni 2 anni senza violazioni con perdite di punteggio ha automaticamente diritto a un bonus di 2 punti. A luglio si conclude il 4° biennio per il sistema e sta quindi per scattare questo beneficio. Oh, mi arrivano dei punti sulla patente. Il bonus in arrivo a luglio è destinato, ricordate, a chi negli ultimi 2 anni non ha subito decurtazioni. Sono 52 milioni di punti che andranno sulle patenti di circa 26 milioni di guidatori italiani virtuosi. Tutti i dettagli li trovate a pagina 9. Eccoci qua, riemersi alle 7:35 minuti. Allora, la politica certo si concentra tutta su, praticamente, sul raduno di Pontida. L'Italia politica era appesa al raduno di Pontida, e per questo allora voglio ripartire dal titolo della Padania: ultimatum al governo. Questo è l'organo della Lega. La premiership di Berlusconi, può darsi che la Lega dica stop. Questo è il concetto principale, primo, che viene messo in risalto nell'editoriale di Igor Jezzi in prima pagina della Padania. Beh, vogliamo andare appunto a vedere una serie di commenti su quello che è successo ieri. Beh, intanto le parole di Umberto Bossi le vogliamo ricordare, le parole a Berlusconi: la leadership è in discussione, dipende dalle scelte che verranno fatte, potrebbe finire alle prossime politiche. Anche il grido che qui si è elevato di secessione, fa sapere il Corriere della Sera, per 8 volte. E poi: noi possiamo andare da soli quando vogliamo. Ma ecco qui che Bossi poi rallenta: se facciamo cadere Berlusconi andiamo a votare, questo è un momento favorevole alla sinistra, ci sono dei cicli storici. Ma anche le critiche a Tremonti: bisogna abbassare la pressione fiscale che è diventata intollerabile, ha detto Bossi. Caro Giulio, se vuoi ancora i voti della Lega deve cambiare qualcosa, non deve toccare gli artigiani, le piccole imprese, altrimenti metti in ginocchio il Nord. Allora, le versioni dei giornali sono ben diversificate. Feltri, Vittorio Feltri, in prima pagina del Giornale, fa un lungo reportage da Pontida. Feltri racconta Pontida. Bossi non tradisce, questo dice Vittorio Feltri, mentre l'Unità dall'altra parte la mette così a pagina 4: al solito abbaia ma non morde, a Pontida Bossi tira a campare. Allora, la verità è che poi ci sono le analisi di quello che è stato, sono stati i commenti di Umberto Bossi. Sono 3 le cose da commentare: il rapporto con Berlusconi, il rapporto con Tremonti, la questione fiscale e anche la possibile successione di Umberto Bossi. Su questo si concentrano i giornali. Intanto Dario Di Vico sul Corriere della Sera, pagina 3, fa notare di come ci sia una sorta di Bossi sindacalista, no? È sceso in campo contro Giulio Tremonti. Ha detto, per esempio, con le tue leggi non si possono toccare i comuni virtuosi, gli artigiani, le piccole imprese, gli allevatori, ai quali Equitalia aveva anche sequestrato trattori e mucche. Una cosa che, ha detto Bossi, neppure la sinistra aveva osato fare. Questo paragone pare abbia anche fatto imbestialire il ministro dell'economia Tremonti, così almeno dice Libero. Ha paragonato Tremonti a Visco, a pagina 8, Fausto Carioti: ha fatto cose peggiori della sinistra. Bossi ha paragonato Tremonti a Visco, e tanto che Fausto Carioti racconta di un Tremonti che sarebbe di umore nero, un Tremonti che addirittura avrebbe cominciato a rilanciare l'idea, l'ipotesi di dare le dimissioni dopo questo discorso di Umberto Bossi. Sta di fatto che quindi un primo elemento è un Bossi sindacalista, scrive il Corriere della Sera. Beh, poi c'è il rapporto con Berlusconi. Ieri Berlusconi ha parlato, ha detto: dopo quello che ho sentito l'asse è solido, si va avanti fino al 2013, non c'è altra alternativa rispetto a questa squadra di governo. Un Berlusconi, secondo il retroscena di Repubblica di Carmelo Lo Papa, che in qualche modo tira un sospiro di sollievo. Non c'è alternativa al mio governo, Umberto ha mantenuto gli impegni, andremo avanti fino al 2013, si è verificato quello che Bossi mi aveva annunciato, e cioè la conferma che la nostra alleanza non ha alternative, c'è la volontà di proseguire la legislatura. Questo ha detto ufficialmente Berlusconi, che secondo Repubblica in qualche modo gongola perché proprio le critiche più dure e inaspettate Bossi le ha fatte nei confronti di Giulio Tremonti, cioè quel politico con il quale la Lega ha un rapporto di dialogo molto fitto, molto stretto. Si è spezzato l'asse tra Giulio e la Lega, dice in privato il Premier a proposito delle parole di Bossi, e dunque la parte più dura del discorso di Umberto è stata proprio dedicata a lui. E su Umberto Bossi e su Tremonti ci arriveremo tra un attimo, perché c'è tutto il tema della questione fiscale che è approfondito dai giornali su questo. Prima altri due aspetti. Beh, intanto la candidatura, l'investitura si può dire, nei confronti di Roberto Maroni, è apparso questo striscione enorme, non si sa bene chi l'abbia portato a Pontida, ripreso da tutti i giornali: Maroni presidente del Consiglio, con tanto di punto esclamativo, uno striscione di 12 metri di larghezza, quello striscione della base per Maroni, così titola il Corriere con il reportage di Marco Imarisio a pagina 5. Qualcuno ha cercato di farlo togliere, come una deputata veneta che si chiama Giovanna Negro e che ha detto: ho cercato di farlo togliere, ma quelli facevano orecchie da mercante, dicevano che non era possibile. Viviamo un momento delicato, quello striscione può creare problemi, hanno ragione, certo, ma santo cielo, la testa bisogna usarla ogni tanto, no? Eppure non ce l'ha fatta. Anche sulla Padania c'è, a pagina 8, interessante, dedicata una pagina sulla Padania, non è che viene non messo in risalto questo striscione, anzi, Maroni presidente del Consiglio, a pagina 8, e c'è anche il balzo di Maroni, la fotosequenza. Dal palco Pontida 2011, eccolo lì, prima foto si rannicchia, seconda foto fa il salto dal palco, terza foto a terra sul pratone sacro di Pontida. Il Maroni scende dal palco, una discesa atletica in tre mosse. Solo che sulla stampa c'è la quarta mossa. Eccolo qui. Maroni si rannicchia, Maroni si lancia, Maroni atterra sul pratone e poi la stampa mette il quarto coso, caracolla e rischia di cadere, ruzzolare per terra, ma in realtà ce la fa e non cade. Per la Padania gli scatti sono tre: l'atterraggio con discesa atletica, scrive la Padania di Maroni, per la stampa la discesa è caracollante con quasi un ruzzolone di Maroni sul pratone sacro di Pontida, salvato in extremis. Vabbè, come sarà andata chi lo sa, chi c'era forse ce lo può dire. Allora, c'è tutto l'aspetto poi fiscale, perché come detto le critiche di Bossi sono state specifiche sulla questione basta la pressione fiscale, basta per esempio la questione della pressione di Equitalia. C'è da dire che Confindustria, in una nota ieri, ha appoggiato Tremonti, si è schierata dalla parte di Tremonti. La nota di Confindustria è questa: a fronte del grave deterioramento della situazione finanziaria internazionale, Confindustria ribadisce che occorre la massima coesione della maggioranza di tutte le forze politiche per dare attuazione al piano di rientro dei conti pubblici predisposto dal Ministro dell'Economia. Dunque un appoggio, un sostegno da parte di Confindustria al ministro Tremonti, in questo momento attaccato anche da Umberto Bossi proprio sulla questione della pressione fiscale, mentre il Corriere dice che Tremonti è pronto a caute aperture anche su quello che ha richiesto la Lega, per esempio la questione dei dicasteri o dei ministeri al nord. Su cosa sarebbe pronto Tremonti? Beh, lavorano i tecnici del Tesoro per l'allentamento della morsa di Equitalia sui piccoli contribuenti, la riduzione della bolletta energetica, la riscrittura del patto di stabilità interno per i comuni. Tutti i punti discussi direttamente da Bossi e Tremonti la scorsa settimana, e la questione anche del trasferimento degli uffici, non dei ministeri. Il trasferimento dei ministeri che Alemanno ha definito una boiata al sindaco di Roma, suscitando le ire ovviamente del popolo della Lega. Ma la questione di Equitalia proprio tra oggi e domani avrà uno sviluppo, perché Equitalia assediata, chi fa pagare le tasse scatena il finimondo. Questo ha detto Umberto Bossi Equitalia però tiene duro, fa sapere il Corriere, l'anno scorso sono stati recuperati 25 miliardi e fa sapere il Sole 24 Ore, questo è il titolo di apertura di prima pagina, che tra oggi e domani, proprio sul tema di pressione fiscale, ci sono degli sviluppi molto interessanti in Parlamento. Il titolo di apertura del Sole è Riscossione, una riforma a metà. Di cosa si tratta? Beh, prove di fair play per la riscossione delle imposte col pacchetto di emendamenti al decreto sviluppo domani all'esame in Parlamento. Arrivano alla stretta finale le modifiche all'accertamento esecutivo che partirà il 1 luglio. La situazione delineata prevede il congelamento del pagamento, ma solo per 180 giorni dopo la richiesta di sospensiva al giudice, senza il principio del silenzio assenso prospettato da professionisti e categorie produttive. Dunque è una parziale contropartita, ma parziale, scrivono poi Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente a pagina 3, perché certo, una volta ricevuta la notifica, il presunto evasore avrà 60 giorni di tempo per decidere se pagare o fare ricorso. Anche se fa ricorso, non potrà temporeggiare a lungo. Potrà chiedere una sospensione del versamento, ma se il giudice, appunto, entro 180 giorni non dirà di sì, sarà comunque costretto a saldare il debito. Dunque, un tentativo di riavvicinamento, ma non molto. Quello che invece succederà sicuramente è una stretta sulle ganasce fiscali, proprio con il decreto sviluppo domani in discussione, quello che, su cui ha puntato molto Umberto Bossi. Ci sarà uno stop alle ganasce fiscali, almeno per chi deve pagare per debiti fino a 2.000 euro. Ma a pagina 2 del Sole 24 Ore Gianni Trovati fa sapere che questo potrebbe creare notevoli problemi ai comuni. Ecco qui, i sindaci perdono le ganasce e rischiano 8 miliardi di euro. Il meccanismo è ben spiegato da Gianni Trovati: nei bilanci dei comuni vengono inseriti ogni anno 20,7 miliardi di tributi, oltre a 1,4 miliardi di multe, 1,8 miliardi di tariffe per altri servizi, un totale di 23,9 miliardi, ma 8 miliardi circa, cioè un terzo del totale, non arrivano nell'anno in cui sono stati chiesti sotto forma di riscossioni di competenza, ma entrano nella gestione dei residui e vengono ricevuti dal comune, quando ci riesce, negli anni successivi. Questo, per esempio, è l'esempio del sostanziale addio alle ganasce con la quale i sindaci ora vedono perdere diversi miliardi di euro a disposizione per i loro comuni. Allora, intanto vi ricordo che per quel che riguarda le tasse, per concludere questo tema, oggi col Sole 24 Ore c'è in omaggio la guida Spesometro, riferita soprattutto alla questione, no, sappiamo, monitorare tutte le operazioni sopra i 3.600 euro, che entra in vigore dal 1 luglio, quindi commercianti, esercenti, artigiani sono molto interessati a questo tema, ma anche tutti noi consumatori. Quali sono le cessioni da tenere sotto controllo? Quando scatta l'obbligo di comunicare tutto quanto al fisco? Cosa può incidere questo nelle abitudini di spesa dei consumatori? Insomma, la guida Redditometro e Spesometro oggi in omaggio con il Sole 24 Ore, per sapere tutto di quello che scatterà tra pochi giorni, no? Tra una decina di giorni. Voglio andare a qualche segnalazione curiosa. Beh, intanto quello che troviamo in prima pagina su Libero, lo ricordo, oggi Libero esce, di solito lunedì non esce, ma è uscito in edizione straordinaria per Pontida, insomma il paese è appeso a Pontida. Il PD subappalta la festa dell'unità. Fosca Binker, alias non è che Franco Bechis, vale a dire il vice direttore, il PD subappalta la festa dell'unità, questo è il titolo di prima pagina. Pierluigi Bersani è tornato a sposare le privatizzazioni. Di che cosa si tratta? Strategie di marketing, secondo Libero. Per la prima volta quest'anno quelle che erano chiamate le feste dell'unità, ora diventate feste democratiche, sono affidate a privati, consulenti esterni chiamati a verbale durante il consiglio di amministrazione del 31 marzo scorso dalla società interamente controllata dal PD che le organizzava, la Eventi Italia Feste, presieduta da Angelo Stefanori, si occuperà delle feste dell'unità, i fornitori, i contratti, eccetera. Vabbè, e Libero la mette così: il PD blatera di acqua pubblica e privatizza la festa dell'unità. Di tema estero voglio segnalare solo questa vicenda che trovate sviluppata su tutti i giornali. Per chi avesse dei dubbi sulla questione libica, sulla questione della guerra in Libia, ecco la prima ammissione di colpa il primo errore da parte della NATO. Strage di civili a Tripoli, la NATO ammette l'errore. Durante la notte tra sabato e domenica, racconta Lorenzo Cremonesi, che è uno dei una cinquantina di giornalisti del mondo che sono a Tripoli, un raid della NATO ha colpito Sukal Juma, uno dei quartieri popolari della capitale, morti 9 civili, inclusi 2 bambini, il ferimento di altri 18. Ovviamente, dice Cremonesi, la propaganda libica non verificabile ci porta a vedere, però sembra proprio che siano dei civili. Ed ecco poi la NATO, che si è scusata effettivamente, ha confermato quello che ha definito, tra virgolette, un errore. Dovuto a che cosa? A un malfunzionamento del sistema di guida delle bombe. L'obiettivo del raid era colpire un deposito di missili, tuttavia un'arma sembra non abbia colpito il bersaglio e a causa di un malfunzionamento del sistema può aver causato un numero di vittime civili. Questa è la missione della NATO, strage di civili a Tripoli, la NATO ammette l'errore. Voglio andare alle due segnalazioni conclusive. La prima è torna la questione emergenza rifiuti. Attenzione, cari ascoltatori, a Napoli e non solo, perché c'è un'emergenza con tanti rifiuti, tonnellate di rifiuti a terra. Il sindaco De Magistris deve affrontare questa prima emergenza. Ha fatto, grazie anche al prefetto, alla provincia, ha fatto aprire una discarica provvisoria a Caivano. Che cosa succede? Il sindaco di Caivano ha bloccato tutto. Un sindaco ferma i camion dei rifiuti. Ordinanza a Caivano, che doveva accogliere l'immondizia di Napoli. Si tratta del sindaco Antonio Falco, nel paese vesuviano. Paura, sfiducia nelle istituzioni, non mi hanno consultato, nonostante il prefetto Andrea De Martino gli abbia scritto chiedendogli di ritirare il provvedimento. Il sindaco di Caivano tiene duro e ferma i rifiuti. E infine abbiamo iniziato con la Gran Bretagna, con il premier che se l'è presa con i papà che abbandonano i figli paragonandoli ai guidatori ubriachi. Voglio chiudere con la Gran Bretagna, con quello che c'è in prima pagina sul secolo XIX, ma non solo lì. Beh, noi ci lamentiamo in Italia che spesso le grandi opere non vengono fatte, vengono contestate, ci sono comitati, ci sono proteste da parte di tutti. Anche in Gran Bretagna c'è un problema contro l'alta velocità. L'ha sollevato la regina Elisabetta. Le maxi infrastrutture, si sa, piacciono poco, scrive Alberto Quarate in prima pagina del Secolo. Se uno Stato decide di costruire una ferrovia dovrà affrontare lunghissimi negoziati con gli enti locali, le associazioni, i comitati, per l'appunto, come detto. Ma allora cosa succede se a dire no a una super ferrovia è la regina Elisabetta? Il problema qual è? È che questa TAV, questa alta velocità in Gran Bretagna, deve passare vicino alle stalle del Horse Trust nei Chilters. È la fondazione dove vengono mandati in pensione i vecchi cavalli che hanno partecipato alle parate reali. Elisabetta vi è molto affezionata. Elisabetta ha mandato il figlio, pare Andrea, al Ministero delle Infrastrutture britannico. Ha detto questa TAV, questa alta velocità, non sa da fare. E perché? Perché i treni disturbano i miei cavalli.